Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Dunque, la notizia che attendevamo: 21 persone inserite nella lista delle misure restrittive decise dall'Unione Europea contro politici e militari della Russia e le Crimea. Queste sono dunque fonti diplomatiche europee, specificano che 21 sono personalità, 13 russe, 8 della Crimea. Dunque la notizia è che l'Unione Europea ha adottato le sanzioni contro i russi. Tutto questo perché la Crimea aveva accelerato i tempi verso l'annessione alla Russia. La comunità occidentale ha cercato una unità sulle risposte da dare ad un referendum ritenuto dalla stragrande maggioranza illegittimo. Il referendum di ieri, che come si aspettava, ma in misura ancora più schiacciante, ha avallato la scelta di indipendenza della penisola ucraina, 96,6% i sì. Il Parlamento ha formalizzato la richiesta di adesione alla Federazione Russa, annunciando la nazionalizzazione dei beni di Stato ucraini, lo smantellamento delle forze militari, il pagamento di stipendi e pensioni in rubli, ribattezzato il Parlamento dall'ucraino Rada al russo Duma. In questo servizio cerchiamo di ricostruire il punto fino a pochi secondi fa, cioè fino a poco prima che venisse fuori la notizia delle misure contro la Russia. Sanzioni sì, ma quali? Questo è il tema in discussione a Bruxelles, partendo dal presupposto esplicitato però chiaramente prima del vertice dall'alto rappresentante europeo per la politica estera Catherine Ashton. Non c'è bisogno che vi dica che il referendum è stato incostituzionale, sia secondo la Costituzione ucraina che per il diritto internazionale, dice Ashton. Faccio ancora appello alla Russia affinché incontri i leader ucraini e inizi a dialogare con loro. Mosca però continua a chiudere la porta ai nuovi inquilini dei palazzi governativi di Kiev e propone oggi stesso a Stati Uniti ed Unione Europea la creazione di un gruppo di supporto per l'Ucraina. Un'apertura diplomatica interessante, cui Mosca però affianca precise richieste, compresa quella di riconoscere e rispettare il diritto della Crimea a decidere del proprio futuro. Quello quindi dell'annessione alla Federazione Russa, avanzata dal Parlamento e dal Premier della Crimea dopo il referendum di ieri. Si torna quindi agli stessi punti: legittimità del referendum e contromisure, sanzioni da adottare. Gli Stati Uniti non hanno ancora deciso. Falchi e colombe discutono su quale sia l'approccio migliore per smorzare la tensione con Mosca. L'Europa invece è arrivata al vertice di oggi apparentemente più convinta della linea della fermezza. Si parla di cancellazione del vertice G8 di Sochi, di divieti di viaggio e congelamento dei beni di persone, misure che potrebbero essere operative oggi stesso, ma che non devono chiudere la porta ad altre soluzioni, spiega il ministro degli esteri italiano Federica Mogherini. Stiamo lavorando innanzitutto insieme a una risposta unitaria di tutti gli europei, della comunità internazionale, che segni una reazione ad un referendum che valutiamo illegale ed illegittimo e che lasci però la porta aperta ad un dialogo per trovare una soluzione politica della crisi. Ci stiamo lavorando, ci vediamo quando finiamo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fino a qui la ricostruzione e di pochi secondi fa la notizia che saranno i leader europei nel vertice a prendere la decisione sull'eventuale annullamento del G8 in programma a Sochi in giugno, lo dicono le fonti diplomatiche europee. Riprendono nel pomeriggio le trattative tra il governo greco e la Troica, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, BCE. Le parti si trovano vicine ad un accordo che potrebbe essere raggiunto entro questa sera, anche se permangono ancora aperte importanti questioni. I conservatori filoeuropei hanno ottenuto una netta vittoria alle legislative anticipate di ieri in Serbia, oltre il 50% dei voti. Il Partito Serbo del Progresso, SNS, potrà governare senza necessità di alleati. Chiudiamo con il peggioramento della performance del sistema giudiziario italiano nella definizione di cause civili e commerciali in primo grado secondo il quadro di valutazione presentato da Bruxelles. Se infatti, secondo la precedente analisi, erano necessari quasi 500 giorni, dati del 2010, dall'attuale emerge che sono saliti a quasi 600, dati del 2012. Mi lascio a tutti convocati per Europa 24. Vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.